e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ebbene sì, dopo il Black Friday e il Cyber Monday, che sono giornate peraltro anche molto divertenti perché ci dedichiamo allo shopping, non potevamo dimenticarci del Blue Monday. Ebbene sì, sarebbe proprio oggi il terzo lunedì di gennaio ed è il giorno più triste di tutti i 365 giorni dell'anno. Furono quasi 20 anni fa i calcoli di Cliff Arnall, uno psicologo dell'Università di Cardiff, ad individuarlo tramite una complicata equazione che mette insieme condizioni meteo. Sensi di colpa si concentrano tutti in questi giorni per le spese per i regali nel corso delle feste. Calo di motivazione alla ripresa, ad aggiungere anche il fallimento dei primi buoni propositi e crescente necessità di darsi da fare. Insomma, chissà se tra gli ascoltatori di Cuore e Denari l'equazione viene confermata oppure vogliamo smentirla, ma me lo volete raccontare stamattina all'800240024? Io sono triste perché non c'è Nicoletta, mi fa riprendere la settimana tutta da sola, ma giustamente lei si vendica per il fatto che sono stata assente invece io venerdì, ma insomma c'è sempre questa ottima staffetta fra noi due. In ogni caso raccontateci voi se è un Blue Monday, raccontateci se lo è per motivi di cuore o di denari, ma diteci anche se il colore del vostro inizio di settimana è più acceso e per quale motivo vi sentite invece così colorati. Noi vi preferiamo naturalmente così, vivaci e pronti a ripartire appunto con il lavoro, con lo studio, con tutti gli impegni della settimana. Se non ci potete chiamare, ci potete scrivere al 349-238-6666, c'è la modalità SMS, ci sono i WhatsApp, insomma ci potete raggiungere in ogni modo. E intanto noi partiamo con questa puntata del lunedì. Non parte tanto bene la settimana per la borsa, Milano sta perdendo un punto percentuale. Faremo così un esame dei temi della settimana di Piazza Affari dei mercati dopo le 11, dopo il giornale radio delle 11, ma intanto vi anticipo che c'è un calo di un punto a Milano, penalizzata Piazza Affari dal downgrade, dalla riduzione di giudizio sul debito da parte dell'agenzia canadese DBRS, quindi il mercato italiano, insomma l'Italia perde l'ultima A, questo giudizio è tripla BI e quindi c'è un impatto negativo in borsa. Poi valuteremo anche qual è l'impatto stamattina sul mercato obbligazionario, perché è quello forse l'ambito più delicato. Sono in calo di mezzo punto anche le altre piazze europee. Peggior titolo di Piazza Affari ancora Fiat per gli accertamenti americani, nuovo Dieselgate, chissà, Fiat perde 4 punti e poi Luxottica invece più 8 punti percentuali, addirittura ha avviato la seduta con un rialzo teorico, non riusciva a fare prezzo di 17 punti percentuali per l'operazione appunto di aggregazione che nasce con l'altro colosso francese Essilor e nasce il campione mondiale dell'occhialeria, un'operazione ricercata da tempo dal gruppo appunto guidato da Leonardo Del Vecchio, nasce adesso, è un gruppo, pensate, da 50 miliardi di dollari di capitalizzazione, ma ne racconteremo i dettagli più tardi. Tra poco per gli argomenti di denari parleremo invece della nostra vita digitale, l'identità digitale che ci permette di fruire di tanti servizi, ma anche parleremo della nostra vulnerabilità digitale, un tema che ci è stato richiamato appunto alla mente dal caso di cyberspionaggio di cui abbiamo letto negli ultimi giorni su tutti i giornali. E poi, nonostante l'assenza di Nicoletta, non mancheranno naturalmente i temi di cuore. In questi giorni si parla molto dei LEA, i livelli essenziali di assistenza, cosa prevedono nello specifico, quali novità ci sono degli ultimi giorni. Faremo un punto con la nostra esperta, una collega del Sole 24 Ore. Poi un altro tema caldo di questo periodo, direi proprio che è questo, l'influenza. Siete influenzati, avete l'ultimo strascico, lo siete stati, seguiteci perché oltre a darvi una fotografia della situazione vi daremo anche i nostri consigli e rimedi per non farsi influenzare o nel caso come uscire da questo momentaccio appunto belli gagliardi. Adesso direi di andare subito al nostro primo approfondimento di denari. Allora, Allora, negli ultimi giorni ha suscitato un grande clamore la notizia dell'indagine sul cyberspionaggio che ha avuto come vittime diverse personalità illustri, fra le quali l'ex premier Matteo Renzi, ma anche il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi. I due fratelli Occhio Nero, dei quali si è tanto parlato e che tutti abbiamo visto alla ribalta di TV e giornali, sono stati indagati per una presunta attività di dossieraggio, cioè raccolta di informazioni sensibili, ma si ipotizza l'esistenza, oltre al loro, come dire, lavoro sotterraneo, e anche di una rete più ampia, forse con ramificazioni di carattere internazionale. Allora, è una vicenda che ha richiamato, come vi dicevo prima, la nostra attenzione sul tema della nostra vulnerabilità digitale, causata spesso, a causa nostra, appunto, causata proprio da noi stessi, dall'uso inappropriato che facciamo della rete, dei nostri dati personali. Detto ciò, tutte le notizie di cronaca su questa vicenda le lasciamo ai colleghi del giornale radio. Noi oggi cosa facciamo a Cuore Denari per affrontare il tema? Abbiamo pensato di fare un punto della situazione sulla nostra identità digitale, partendo da quella predisposta dallo Stato per i servizi ai cittadini. Proprio qualche giorno fa abbiamo appreso che ad oggi sono state oltre 1 milione le identità digitali rilasciate grazie a SPID, il sistema pubblico di identità digitale, appunto, fra amministrazioni pubbliche centrali e locali. È una cifra importante, anche se però forse un pochino al di sotto delle aspettative che la pubblica amministrazione aveva quando ha avviato l'intera operazione poco meno di un anno fa, circa nel marzo appunto dell'anno scorso. Si ipotizzava che nel 2016 si potessero rilasciare almeno 3 milioni di SPID, invece siamo intorno al 1 milione. Cosa vuol dire questo? Che i cittadini hanno avuto difficoltà appunto nel fare questa operazione di iscrizione a questo sistema pubblico, oppure non hanno ancora ben compreso a che cosa serva tutto ciò. E allora io vi chiedo questa mattina: cosa ci serve questa identità digitale? Avete già provveduto a creare il vostro profilo? Quanto tempo avete impiegato? E se invece non lo avete fatto, appunto, che cosa cosa vi ha ostacolato in questo? 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta e chiacchierare questa mattina con Antonio Samaritani, che torna a Cuore e Denari, è direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, l'AGID. Dottor Samaritani, buongiorno e grazie di essere tornato a trovarci. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Allora, io ho già appunto ricordato il numero verde per intervenire in diretta su questo argomento. Facciamo subito un passo indietro per i più distratti. SPID, la nostra identità digitale, dottor Samaritani, abbiamo detto, proviamo a fare noi la carta d'identità di SPID. Cos'è, quando è nata e chi può crearsi questa identità, e appunto chi sono questo 1 milione appunto di persone che hanno già provveduto? Sì, perfetto. Partiamo, come lei diceva, da ricordare cos'è. Allora, SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, o conosciuto anche come il PIN unico, è il sistema di credenziali, cioè sostanzialmente non utente password, con la quale accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Oggi abbiamo circa 1 milione di utenti e abbiamo circa 4.000 amministrazioni, per l'esattezza 3.700 amministrazioni collegate, che offrono 4.300 circa servizi. Tra questi servizi, i servizi di amministrazioni centrali, per esempio tutti i servizi di IMSS, tutti i servizi di INAIL, molti servizi delle agenzie delle entrate con 730, comuni, regioni in via di attivazione, eccetera. Quindi è un sistema che progressivamente sta andando a coprire tutti i servizi della pubblica amministrazione. Quindi, avendo questa identità digitale, io posso fruire di tutta una serie di anche relazioni con la pubblica amministrazione senza necessariamente dover attivare magari un contatto diretto con ciascuna di esse in via individuale, sostanzialmente. È una razionalizzazione dei nostri contatti con la pubblica amministrazione, per cui posso contestualmente dialogare con Equitalia, con l'INPS, e noi ne abbiamo sentito tanto parlare perché questa credenziale SPID è stata necessaria appunto per esempio per i ragazzi nati nel 1998, che hanno potuto beneficiare e utilizzare 500 euro messi appunto a disposizione per il bonus cultura appunto da parte dello Stato, esattamente come è successo per i docenti, che lo stesso avevano il bonus di questa cifra appunto previsto dal bonus scuola, dalla buona scuola, dottor Samaritani. Esattamente, quindi con SPID sostanzialmente si semplifica il rapporto con la pubblica amministrazione, perché diciamo che il PIN unico o comunque comunque le credenziali uniche sostituiscono le decine, centinaia di password che ciascuno di noi ha nascosto da qualche parte, quindi chi nell'agendina, chi nel, da qualche parte appuntate sulla cosa, quindi abbiamo una sola che serve per tutto ed è una, diciamo, controllata, perché alla base ci sta il riconoscimento fisico o comunque via web dell'identità attraverso la presentazione di un documento. Io di le faccio un esempio, dottor Samaritani. Mia sorella è un'insegnante, doveva avere proprio il bonus scuole, devo dirle che però 2-3 giorni di tempo li ha dovuti perdere per attivare la SPID. Questo è forse stato un po' quell'ostacolo che ha impedito a tutti gli italiani di accreditarsi, e magari appunto ecco perché oggi parliamo di un bilancio di accreditati SPID un po' inferiore rispetto alle aspettative. Da questo ripartiamo dopo il traffico, tra un attimo. Cuore e denari. Technology, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it. Allora, oggi parliamo della nostra identità digitale e della possibilità appunto di costruircela, soprattutto per dialogare in maniera rapida, veloce con la pubblica amministrazione attraverso SPID. Con noi questa mattina il dottor Antonio Samaritani, direttore dell'Agenzia per l'Agenzia per l'Italia Digitale. Abbiamo detto appunto che hanno aderito a questa opportunità all'incirca 1 milione di cittadini italiani, contro stime che un anno fa ipotizzavano che nel 2016 almeno 3 milioni di italiani potessero costituire la loro identità digitale, come dicevamo. Dottor Samaritani, insomma, secondo lei quali sono le difficoltà che hanno riscontrato i cittadini, oppure semplicemente è stato banalmente disinteresse? Non avevano fretta, non avevano necessità di farlo, per cui non si sono attivati? No, guardi, lei citava prima dello stacco sul traffico il punto secondo me fondamentale, e cioè quello che per un certo periodo di tempo ricevere o comunque ottenere SPID risultava per il cittadino sicuramente complesso. Allora, noi abbiamo lavorato su questo tema molto, però voglio e ci tengo a sottolineare un punto: dobbiamo bilanciare due fenomeni e due esigenze. Da un lato quella della semplicità di accesso a SPID per il cittadino, o comunque per di ottenimento di SPID da parte del cittadino, dall'altro quella della sicurezza, a cui lei faceva riferimento a inizio apertura. Allora, SPID lo dobbiamo vedere come il passaporto per entrare in internet in modo sicuro. Allora, per prendere un passaporto un cittadino italiano fa una coda alla questura. Allora, noi dobbiamo evitare il fenomeno delle code, dobbiamo semplificare il processo di identificazione, però siccome dietro ci sta comunque un processo di identificazione attraverso un documento di identità, e questo lo differenzia fondamentalmente da tutti gli altri sistemi di credenziali, quelli per esempio dei social network, ecco, un minimo di necessità di formalismo non potremo mai eliminarlo. E questo è a garanzia della nostra sicurezza, di quello che lei diceva prima sul tema della cyber security, e poi sul fatto che, essendo una pubblica amministrazione, noi con questa piattaforma, veda il caso per esempio dei diciottenni e dei professori, noi eroghiamo dei soldi, e quindi siccome eroghiamo dei soldi pubblici è chiaro che dobbiamo avere un formalismo e una necessità di attenzione rispetto all'identità che non può essere quella che si può avere in un sito sostanzialmente di intrattenimento. Certo. Stessa cosa se posso per i dati sensibili, cioè noi con SPID entriamo in dati sensibili, dichiarazione dei redditi, fascicolo sanitario, eccetera, eccetera, e quindi di conseguenza abbiamo necessità di mantenere quel controllo che altrimenti si potrebbe ovviamente evitare. Certo, secondo i principi che lei ci ha spiegato, diciamo, dotarsi di SPID è auspicabile perlomeno per tutti i cittadini. Chi però proprio non dovrebbe assolutamente farne a meno, dottor Samaritani? Ma guardi, io penso che alla fine tutti noi non dovremmo farne a meno, perché siccome un rapporto con la pubblica amministrazione ce l'abbiamo tutti prima o poi, quindi devo pagare un bollo, devo ahimè pagare una multa, devo guardare il 730, eccetera eccetera, qui si tratta di investire 15-20 minuti del proprio tempo una sola volta, e poi una volta che abbiamo SPID ce l'abbiamo, mi faccia dire, per sempre. Adesso non voglio parafrasare pubblicità, ecco, però ce l'abbiamo per sempre, e quindi voglio dire, è un investimento di 20 minuti che viene fatto una volta. A questo proposito lei mi diceva prima quali altri miglioramenti. Allora, noi stiamo lavorando molto però sul concetto comunque della semplificazione e dell'aumento della disponibilità dei punti in cui sia online sia fisici fare SPID. Allora, la settimana prossima entrerà un quinto identity provider, Aruba, quindi oggi gli identity provider, quindi i diciamo i fornitori di identità digitale sono InfoCert, Poste Italiane, Sielte e TIM, entrerà Aruba, e quindi questo, insieme ai miglioramenti che gli altri identity provider stanno facendo, secondo me garantirà nel giro di poco tempo di ottenere una situazione a regime, certo, in cui quindi mi diminuiscono le code, diminuisce quindi anche il disagio che c'è stato. Quindi sempre di più verso la semplificazione. A proposito di questo, leggerò una domanda di Liusella da Bergamo, ci scrive su WhatsApp: io uso i vari PIN per Agenzia delle Entrate, IMSS, eccetera, richiedendo lo SPID annullo i vari codici PIN, come faccio ad annullarli? È una procedura automatica configurando un'unica identità digitale? Certo, ringrazio Giuseppe. Allora, i PIN rimangono validi, però tenga conto che per legge della privacy e per comunque procedure di tutti i servizi pubblici, i PIN hanno una scadenza. Quindi un PIN non utilizzato scade naturalmente. Quindi non c'è bisogno di revocare, non c'è bisogno di revocare il PIN, se uno lo vuole fare tanto meglio, perché aumenta la propria sicurezza. Però nel giro di 3 mesi un PIN inutilizzato scade. E a proposito invece di, come dire, scadenze, Ennio da Bergamo ci scrive: io la farei anche, l'idea è che sarà poi a pagamento, così almeno il letto mi frena. Guardi, anche su questo ringrazio la domanda, perché è un punto essenziale. Come probabilmente molti ascoltatori ricorderanno, abbiamo iniziato con un periodo di prova che terminava il 31/12/2016, in cui SPID era dato gratis ai cittadini. Adesso siamo nel 2017 e continua a essere gratis. Perché? Perché stiamo dando corso a quell'impegno che ci eravamo presi di lavorare per la sostenibilità del modello, in modo che sia gratis anche qua per sempre. Noi ci siamo dati come orizzonte ancora di prova il giugno del 2017, quindi altri 6 mesi, però stiamo assolutamente lavorando perché questo diventi gratis in maniera strutturale. Ecco, perché chiaramente deve essere un pezzo, come dicevo prima, un pezzo come il passaporto, un pezzo della nostra identità vista sul digitale, quindi non può essere a pagamento. Allora, dottor Samaritani, un po' per magari provare a far fare un tentativo agli irriducibili di chi non ha intenzione appunto di profilarsi secondo questi criteri, perché poi il tema è anche un po' questo da parte di molte persone che non vogliono trasferire i dati personali, pur essendo in realtà un meccanismo nato proprio per la totale sicurezza in questo senso. Che cosa si fa? Allora, io da domattina mi decido finalmente a fare SPID. Esattamente. Allora, da dove inizio? Io consiglierei a tutti è di andare sul nostro sito che abbiamo fatto, che è un sito informativo che guida passo passo. Il sito è www.spid.gov.it. Allora, lì trovate non solo la spiegazione di come si accede a SPID, di che cosa si deve fare, eccetera, eccetera, ma anche la differenza di processo, peraltro minime, tra i 4 e, dalla settimana prossima, 5 identity provider. Quindi Poste con i propri punti fisici, InfoCert e Sielte con riconoscimento via web, eccetera, eccetera, in modo che ciascuno cittadino possa scegliere il percorso che più si avvicina alle proprie esigenze. Ok. Fondamentalmente, che cosa serve come percorso comune a tutti? Allora, chi ha già una firma digitale, essendo già stato identificato in maniera sicura, ha un percorso facilitato. Chi è veloce, è tutto online. Chi non ha una firma digitale deve sostanzialmente dotarsi di 2 cose, di un documento in corso di validità e del codice fiscale. Con questi 2 documenti, o scannerizzati o fisicamente, se sceglie il processo fisico, avvia il processo di identificazione, che normalmente dura un quarto d'ora, 20 minuti. Intanto un altro ascoltatore si lamenta del fatto che dopo mesi di insuccessi la figlia 18enne della sua compagna, prima della sua classe, è riuscita solo domenica dopo 6 mesi ad ottenere un biglietto del cinema. Questo significa fruire dei famosi 500 euro del bonus 18enni, che per ottenerlo bisognava configurare appunto la SPID. Questo non c'entra niente, la SPID, il tema sono anche le sale cinematografiche che si accreditano per poterlo utilizzare. È un altro problema, e lo dico agli ascoltatori. Dottor Samaritani, sì. Esatto, però se mi fa fare un commento brevissimo su questo, credo che sia importante. Allora, anche su questo, fa parte del percorso, no? di portarci tutti al digitale, per cui da una parte lo SPID, dall'altra parte abbiamo aperto una piattaforma che, attenzione, è una piattaforma comune, cambia la carrozzeria, mi faccia dire, però tra quello di SPID, cioè l'app 18 e quella dei professori, non cambia niente tecnologicamente. E quindi abbiamo creato un meccanismo che ci porta tutti verso il digitale, esercenti compreso. Chiarissimo, dottor Samaritani, grazie, ci sentiamo presto. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Venerdì 20 gennaio 2017. Radio 24 vi porta alla cerimonia di insediamento del 45esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L'appuntamento in diretta, all'interno di Focus Economia, pochi minuti prima delle 18. Al portico est del Campidoglio si rinnova una tradizione iniziata quasi due secoli fa. I love this country. Thank you very much. Venerdì 20 gennaio alle 17.50 su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. Alimentari, alimenti, meno 5 o 50 così. Butto, hai meno 10, Monferrarese, Monferidagna, zuccheri Roma, 45 più. Allora, Luca Tremolada del Sole 24 Ore sente questa canzone e dice: ma che razza di cosa avete messo in onda? Questo è Lucio Dalla. Me ne stavo andando. Canta la canzone della Borsa Valori, elenca tutta una serie di società che non esistono più. Eridania, quando mai ne abbiamo sentito parlare? Vedi, no? che si impara sempre qualcosa. Esatto, poi io e te ci conosciamo dal 2001 praticamente, ma mai abbiamo sentito parlare di questi titoli citati appunto dal nostro, uno dei più grandi nostri cantautori. 16 anni? Esatto, mamma mia. Ci stiamo invecchiando qui dentro. Allora, Luca Tremolada ci ha raggiunto qui in studio perché con lui continueremo a parlare delle questioni legate alle nostre cattive abitudini digitali, quelle che ci sottopongono naturalmente a tutta una serie di rischi, non al cyberspionaggio, ma chi l'ha detto? Non esatto. È detto che se non stiamo attenti, appunto, magari qualcuno anche spia un po' tra la nostra posta e per non andare oltre. Detto questo, però, Luca, prima di tutto ciò, devi sentire con me cosa succede oggi sui mercati finanziari. Approfondiamo i temi di inizio settimana perché sarà una settimana molto interessante, riprende la grande danza delle banche centrali internazionali, ma soprattutto una settimana che parte molto male con un ribasso abbastanza forte per Milano di oltre un punto, perdono mezzo punto Parigi e Francoforte, Londra e sulla parità su Milano pesa appunto il negativo giudizio che ha dato l'agenzia di rating canadese DBRS e che ha tolto praticamente la A all'Italia. E allora con quale impatto in borsa l'abbiamo detto, vedremo appunto anche sul mercato obbligazionario che succede. Pietro Calì, consulente finanziario di Copernico SIM, buongiorno e buon inizio settimana. Grazie, buongiorno a voi. Allora, questo taglio di giudizio appunto annunciato venerdì in tarda serata, l'agenzia DBRS, come dicevamo, ha deciso di portare il rating sull'Italia AAA da A con outlook comunque stabile. Punta in ogni caso l'agenzia il dito sulle difficoltà del paese di portare avanti le riforme e sulle condizioni del sistema bancario. Oltre alla borsa, che altri effetti abbiamo visto stamattina, Calì? Beh, sicuramente questo downgrade non piace a nessuno. L'effetto principale, come sappiamo, è sull'azionario, quindi più che sull'obbligazionario abbiamo visto i titoli questa mattina che stanno patendo questo downgrade. La società canadese, purtroppo, avendo declassato a questo livello il rating italiano, mette un po' più in difficoltà perché per un sistema abbastanza complicato di collaterali, ecco, l'esborso delle banche verso la BCE che presta loro i soldi sarà molto più elevato, sarà di circa 8 miliardi superiore. Unicredit ha proprio questo weekend pubblicato un bel report in riferimento alle problematiche che può portare e può gli effetti che può portare questo problema. DBRS certamente sta affossando i mercati in questa fase che sicuramente in questi momenti hanno bisogno di un po' più di stabilità. Oggi il mercato e l'economia italiana è affossata, come sappiamo, dall'incertezza politica e gli effetti che potrà portare questo tipo di taglio, secondo me nel medio termine si rifletteranno anche sugli spread e anche sul mercato obbligazionario. Allora, peraltro va segnalato che erano 4 anni che l'Italia non subiva un downgrade, in realtà magari ci sarebbe piaciuto anche avere un giudizio che andasse in un'altra direzione. A marzo 2013 era stata Fitch a declassare il debito sovrano subito dopo le elezioni parlamentari, il cui risultato, pensate cosa disse Fitch, inconclusivo, rendeva improbabile la formazione di un governo stabile in un clima sfavorevole alle riforme strutturali, un po' quello che sta succedendo in realtà anche in questi tempi. Allora, Piazza Affari invece, tornando appunto proprio nel dettaglio al mercato azionario, tiene banco oggi naturalmente l'operazione Luxottica, la mega operazione di aggregazione con la francese Essilor, che darà vita ad un gruppo da 15 miliardi di euro di fatturato e 50 miliardi di capitalizzazione. Cosa dobbiamo spiegare ai piccoli azionisti di questo grande gruppo Calin in termini appunto di questa operazione che è abbastanza complessa e che verrà finalizzata nella seconda parte dell'anno? Sì, sicuramente questa è l'operazione del mese per il FTSE 1000, perché davvero i valori in gioco sono davvero molto importanti. Innanzitutto la prima considerazione da fare è che le sinergie date da questa fusione saranno di circa 500 milioni nel medio termine, quindi c'è un gran vantaggio per l'azionista che ha investito in questo tipo di aziende. Ecco, se guardiamo dal punto di vista proprio dell'azionista, molto probabilmente la società verrà delistata dal FTSE MIB, esatto. Quindi l'azionista attuale riceverà un concambio di azioni, riceverà 0,46 azioni Essilor per ogni azione Luxottica che ha in portafoglio, e molto probabilmente appunto l'azienda verrà quotata, la società verrà quotata a Parigi in quella fase. Ovviamente il concambio secondo me genererà solo benefici. Questa mattina molte società di investimento hanno alzato il rating sul titolo. Kepler Cheuvreux ha alzato da 44 a 56 euro per azione il titolo, quindi secondo me le prospettive sono assolutamente positive. Infatti Luxottica insieme a Salvatore Ferragamo stanno trainando in parte per quanto possono il listino italiano. Certo, anche Moncler va bene, diciamo un po' tutta la moda questa mattina sta andando bene, è iniziata la settimana della moda a Milano e già i manager appunto di questi grandi gruppi in ogni caso stanno esprimendo degli orientamenti positivi sullo stato di salute del settore. Remo Ruffini, numero uno di Moncler, sta dicendo appunto, lo richiamano le agenzie, che le vendite natalizie sono andate bene, c'è stato anche un ottimo inizio 2017. Banche deboli per le motivazioni appunto che Calici spiegava poco fa, ma andrei di nuovo al caso Fiat, Calì velocemente, meno 6 punti percentuali anche stamattina dopo il tracollo di venerdì nella parte finale della seduta. Exor, la holding del gruppo, perde 4 punti e insomma una gran bella grana è piovuta sulla società. Esatto, FCA anche lei in sofferenza questa mattina, anche se devo dire che Marchionne proprio venerdì è stato molto deciso nel difendere la società. Si è parlato molto di scandalo, secondo me più che di uno scandalo, qua si tratta di un errore tecnico, come tra l'altro ha confermato la D. Il problema sarà vedere la multa, perché si parla di 4 miliardi e 6 di multa massima, molto probabilmente verrà ridotta come è successo per Deutsche Bank o anche per Volkswagen. Ricordiamo che quest'anno probabilmente l'utile di FCA sarà 1 miliardo e 6, secondo me la multa si dovrebbe aggirare intorno a quel controvalore. Detto ciò, secondo me FCA ha comunque un'operatività molto sana, molto stabile e nel medio termine dovrebbe tornare intorno a quota 10 euro per azione. Io ringrazio intanto Pietro Calì per essere stato con noi. Ricordo che Wall Street oggi è chiusa per il Martin Luther King Day, ma intanto comunque venerdì il mercato americano non ha mancato di toccare un nuovo record sul Nasdaq, l'indice dei titoli tecnologici che tanto piace a Luca Tremolada, vero Luca? Ne vado pazzo, ne vai pazzo. Mi sveglio e dormo. E infatti noi più o meno adesso con il prossimo approfondimento rimaniamo in questo mondo. Gioca, gioca, bel bambino, che il tuo babbo ti ha comprato un computerino. E qui dentro quel che sei. Allora, abbiamo parlato tanto di speed della nostra identità digitale. Luca, di inizio trasmissione, tu eri nella nostra cabina di regia, stavi ascoltando quanto ci ha raccontato il dottor Samaritani. Devo dire che stanno continuando ancora ad arrivare molti messaggi da parte degli ascoltatori che non credono fino in fondo a questo strumento, alla sua utilità, ma soprattutto si lamentano appunto della modalità di aderire, dell'accesso appunto, di come si fa a costruire questa identità digitale, a prescindere poi dalla, come dire, certificazione che bisogna fare. In realtà vedo appunto molte molte perplessità. Tu dal tuo punto di vista come la vedi tutta questa operazione? Allora, lo speed è la madre di tutte le battaglie, innanzitutto. Va detto che in questo momento c'è un uomo nuovo, no? Al comando, Piacentini, per cui a lui è stato dato un mandato. Ex numero uno di Amazon Italia. Un ex numero due di Amazon. Mondiale, ecco. Esatto, un manager molto skillato, come si dice dalle loro parti, è stato scelto dall'ex premier Matteo Renzi. Adesso si spera, io lo dico da tecnologo, che abbia spazio e potere di manovra. Io purtroppo devo dire che quello della pubblica amministrazione non è sempre meno un tema tecnologico, è sempre più un tema di burocrazia e potere politico, perché qui si tratta di dare alle persone il potere per poter cambiare le cose. E questo non è avvenuto. Ci sono stati l'agenzia che doveva parlare poi con il consiglio, che doveva poi parlare col premier. Cioè, diciamo che il nodo, oltre che tecnologico, perché sappiamo che i server di un comune parlano una lingua che alle volte è diversa da quelle dei ministeri, c'è proprio un'interoperabilità politica, ecco, per usare una parolaccia di noi tecnologi. Senti, ma secondo te appunto a cosa ci serve? Prima ho chiesto al dottor Samaritani chi in assoluto deve dotarsi appunto di questo strumento, lui dice naturalmente lo dovrebbero fare tutti, ma chi, qual è quel profilo che in assoluto appunto non può farne a meno, adesso a prescindere dall'insegnante che attraverso questa modalità riceve il bonus scuola, il diciottenne, il bonus appunto per i diciottenni, ma a prescindere dalla contingenza, il professionista che dei rapporti durevoli con la pubblica amministrazione. Cioè, io diciamo che quando tu cominci a strutturare un progetto di digitalizzazione devi partire non da quello che pensa la politica, dagli ultimi, ma da chi ha un utilizzo massivo. In questo senso l'esperienza di Amazon è interessante perché loro ragionavano sull'acquirente e sono diventati i più bravi, perché è una macchina del male Amazon da questo punto di vista. Tu non puoi fare una ricerca di nessun tipo di prodotto perché nel giro di 5 secondi ti sparano offerte di ogni tipo su tutto quel prodotto, su tutti i suoi annessi e connessi, fratelli, cugini, tracciano io uso delle parole piuttosto dure, anche perché se di mestiere volessi competere con Amazon farei da Italia, da piccolino farei una gran fatica, ecco. Esatto. Va detto, quando poi ragioniamo sui grandi sistemi, il libero mercato, la mano invisibile, certo. Mamma mia. Comunque la puntata non era né su Amazon, la speed l'abbiamo archiviata, anche se vediamo poi se adesso ci dobbiamo tornare. Il tema da cui volevamo ripartire era un po' questa indagine sul cyberspionaggio che, dicevamo prima, ha avuto diverse vittime illustri, Matteo Renzi, Mario Draghi, sì? In realtà ecco. No. Nel senso che l'attacco, qua è una cosa da giornalista di tecnologia che vuole fare mettere i puntini su lei. Altrimenti non ti avremmo chiamato, naturalmente. Ok, allora c'è stata una drammatica polemica su Facebook. Però, insomma, il tema è questo. Guardando gli atti, che cosa è emerso? È emerso che hanno attaccato tutti, cioè hanno attaccato Matteo Renzi e così. Poi, di fatto, le violazioni hanno riguardato solo politici minori. Però ci sono state. Infatti, il cuore del tema è che c'è stato un attacco al potere, come per usare il titolo di un film. E l'altro dato interessante è che questo attacco non è avvenuto da una grandissima organizzazione criminale tipo la Spectre, da russi o scienziati. Sì, esatto, ma da due personaggi quasi improbabili per i quali proprio c'è il dubbio che ci sia ben altro dietro. C'è il dubbio che ci sia ben altro, ma c'è la certezza che insomma i software utilizzati hanno qualcosa di fatto in casa. Ed è questo il vero dato interessante, ecco. Che ormai per insomma inventarsi un malware, prenderlo e lanciarlo e cercare di capire, sparare nel mucchio se qualcuno abbocca, è diventato, ecco, questa operazione è diventata poco costosa. Non dico che la possono fare tutti, ma se un giorno vieni con me, ti porto a vedere nelle mie segrete stanze del mio computer orrendo, vedi che c'è un mercato, insomma, dove si comprano, si acquistano strumenti di questo tipo e costano pochissimo. Ecco, allora, sembra proprio che tu abbia letto la mia scaletta, in realtà non ce l'hai, ma ti abbiamo chiamato proprio per questo. Oltre alla ricostruzione dal punto di vista giudiziario di questa vicenda, naturalmente si è fatto un gran parlare anche attraverso il gergo informatico che tu utilizzi molto spesso di tutto questo. Da questo punto di vista, come possiamo difenderci come comuni cittadini da questi pericoli? Io dico sempre, naturalmente, in primo luogo, per esempio, scaricando meno roba improbabile appunto da internet, collegandoci sui siti con attenzione. Detto ciò, in realtà poi questa famosa faccenda per esempio dei cookie è un modo per, come dire, rubarci le nostre credenziali molto facilmente. Magari lì non è pericoloso, però partendo da un termine che tu hai utilizzato poco fa, malware, ci dici che cos'è esattamente, cosa deve sapere zia Maria? Esatto, magari ha solamente un indirizzo di posta elettronica con il quale si scrive delle mail con parenti lontani e ad un certo punto però si imbatte per esempio in questo. Che cos'è? Allora, cara zia Maria, il malware è un software malevolo, è un software che senza che tu ti accorga di nulla entra nei tuoi sistemi informatici, nel tuo telefonino piuttosto che nel tuo computer di casa e riesce a sottrarti delle informazioni. Io dico spesso alla signora Maria che il miglior antivirus del mondo è il suo cervello e il suo buon senso, nel senso che se tu prendi un esperto di sicurezza e lo fai ubriacare, per cui si dimentica di doverti vendere tutti i suoi prodotti, ti dice che sostanzialmente negli ultimi 10 anni ci sono poche cose che le persone normali devono assolutamente fare per essere sicuri. La prima è non cliccare a casaccio tutto quello che arriva in posta elettronica, cioè se arriva una mail non bisogna resistere all'impulso primordiale di aprire tutti gli allegati che ci sono. L'allegato è uno dei veicoli di malware più utilizzati. Non solo, non bisogna neanche cliccare i link all'interno del corpo della mail, perché a meno che non ne siamo molto sicuri. Ma qui il trucco fondamentale: sono diventati le organizzazioni criminali talmente brave che il loro gioco non è tanto quello di studiare il virus più potente del mondo, ma di ingannarti, per cui di cercare di simulare la mail della persona, dell'istituzione, del negozio, dell'impresa a te più vicina. Per cui, ecco. No, stavo pensando che i fratelli, come si chiamano, Occhio Nero, non avranno utilizzato una modalità di questo tipo per entrare appunto nei siti, negli indirizzi di posta di quei personaggi che indicavamo prima. Ma secondo te c'è una relazione fra il farsi un'identità digitale secondo i criteri SPID e la possibilità di cadere nella rete di un malware? Ci protegge SPID da questo? Non c'entrano assolutamente nulla questi due mondi? No, non c'entrano nulla. Il punto è quanto noi siamo in grado di proteggere la nostra identità e la nostra password. Questo è l'unico tema, per cui è evidente che se io insisto nel chiamare come la mia fidanzata o mettere come scegliere come password la mia data di nascita o il classicissimo 123456678, ecco lì insomma me lo sono andato a cercare. Quindi mi stai dicendo che ancora si persevera su questa tipologia di abitudini per... Ma anche perché il lavoro dell'hacker è quello di ricostruire l'insieme delle tue relazioni. Scoprono che Luca Tremolada c'ha un figlio, due gatti e un cane. Benissimo. Tramite un giro. È una compagna. Carissimamente. Salutiamo carissimamente. Esatto. Ecco, nel momento in cui. Però io non uso. Di solito agli uomini non passa mai dall'anticamera di usare il nome della moglie, della fidanzata. Questo è statistica, non è Tremolada che parla. No, però cosa succede? A quel punto la cosa più facile è dotare il software per capire, per tracciare la password, del nome dei gatti, dei cani che hai in casa. In quel caso lì è facilissimo beccarlo, perché magari chiamo una volta Zelda 21, Zelda è il nome del mio cane, domani lo chiamo Zelda 11, domani lo chiamo Zelda 1900 e mi beccano. Una volta entrati, che cosa fanno? Ed è questa la grande novità tecnologica. Stanno lì dentro. E aspettano un momento per avere quell'informazione che può aprire una o due scatole. Certo. Luca, il tempo a nostra disposizione è terminato, ma tornando per una conclusione sulla vicenda del cyberspionaggio, secondo te, partendo da quella grossa indagine, che tipo di raccomandazioni di buonsenso possiamo trasmettere ai nostri ascoltatori oltre a questa, appunto, sul tema della password, sulle quali sei stato molto chiaro? Allora, di ragionare l'accesso a internet come un locale di cui non si conosce molto bene gli avventori, di cui non si conoscono gli avventori. Cioè, quando entriamo in un bar non diamo retta a tutti. Cioè ci sediamo e ci guardiamo intorno, dobbiamo essere semplicemente un po' attenti, pensare che c'è qualcuno, che ci sono degli sconosciuti lì dentro, non averne paura. Io navigo dappertutto, faccio le peggio cose, però insomma avere quelle tre o quattro regole di buon senso, tale per cui se tu vai in un bar non dai la tua carta di credito al primo che passa per dire ma vammi a pagare il conto, ecco. Per cui ragionare questo ambiente come se fosse un locale pubblico. C'è di tutto. Luca, grazie per essere stato con noi, a presto. Abbiamo la borsa e poi torniamo invece sui malanni di stagione, ma soprattutto ripartiremo con i temi di cuore con i LEA, i nuovi livelli essenziali di assistenza, tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. Il tuo sguardo è un attacco. è una risonanza magnetica. Il tuo giudizio è libertà vigilata o sedia elettrica. Allora, termini medici che ci aiutano ad entrare nella seconda parte del programma, quella di cuore. Il primo approfondimento di oggi è dedicato ai LEA, ai livelli essenziali di assistenza. Un passaggio storico per la sanità italiana, così il ministro della Salute giovedì sera su Twitter ha commentato la firma del premier Gentiloni sul provvedimento, peraltro proprio non appena uscito dall'ospedale dopo la sua angioplastica, quindi insomma mi pareva una firma sul provvedimento corretto, in attesa del via libera della Corte dei Conti e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Vediamo un po' cosa prevedono i nuovi LEA e ci aiuta a vederci più chiaro la collega del Sole 24 Ore, Barbara Gobbi. Buongiorno Barbara, bentornata, grazie. Ci senti? Allora, un attimo che abbiamo un piccolo intoppo di carattere telefonico, come spesso ci capita. Peraltro, come appunto la stessa Barbara sulle Sole 24 Ore definiva ILEA, li chiama la spina dorsale del Servizio Sanitario Nazionale. Sono nati nel 2001 in occasione della riforma del titolo V della Costituzione, che diede proprio il là alla regionalizzazione della salute. Con quale obiettivo? Quello di garantire a tutti i cittadini parità di accesso alla salute da nord a sud Italia. Sono passati 15 anni in concomitanza con una nuova modifica costituzionale che avrebbe potuto, se approvata, appunto porre fine alla legislazione concorrente sulla salute. Si punta al rilancio. Vediamo se Barbara è pronta. Barbara, stavo rileggendo intanto un tuo pezzo di novembre scorso. Eccoci. Prima del referendum, peraltro, scritto, per cui lì si ipotizzava anche la modifica costituzionale. Però dicevamo, mi è piaciuta molto questa definizione che tu dai ILEA, la spina dorsale del Servizio Sanitario Nazionale. Sì, sono la spina dorsale, intanto buongiorno, buongiorno a te. Ben trovata Deborah, a te e a tutti gli ascoltatori. I livelli essenziali di assistenza, come sicuramente avrete detto, sono le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto ad erogare a tutti i cittadini in via gratuita dietro pagamento del certo. ticket. Ora ci siamo, c'è finalmente questa revisione che è alle porte, scatterà con la piena operatività con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e le prestazioni sono tante, le prestazioni nuove e soprattutto quelle che sono sottoposte a una revisione e che saranno sottoposte, questa è un'altra delle novità importanti, ad aggiornamento continuo. Perché il primo step di revisione è previsto già entro il 28 febbraio, quando la Commissione Nazionale presso il Ministero provvederà a una prima verifica dei contenuti e a un delisting di cure e servizi considerati ormai obsoleti. Infatti l'avrei voluto proprio chiedere, esattamente come si usa nel gergo di borsa e finanza, ne abbiamo parlato proprio poco fa parlando di Luxottica, anche in questo caso ci sarà un delisting di patologie che non rientreranno più appunto nei LEA, mentre altre ne entreranno, no, di prestazioni, Barbara. Esatto. Ci fai i casi più forti, più evidenti? Ma allora, intanto per quanto riguarda il delisting, pensiamo al nomenclatore protesi ausili, che è uno dei, diciamo, una delle novità, perché l'aggiornamento era atteso da molti anni, era fermo al 1999 il vecchio nomenclatore protesi ausili per i disabili o per i cittadini non autosufficienti. Quello che esce ad esempio è la somministrazione di plantari e di calzature ortopediche per una platea molto ampia di cittadini, e questa forse è una notizia che non farà molto piacere a chi magari ha un difetto lieve e che comunque diciamo veniva coperto dal Servizio Sanitario Nazionale. Per quanto riguarda invece un'ipotesi, un esempio di delisting, possiamo pensare a tutte le prestazioni che dall'ospedale passano all'erogazione in ambulatorio oppure in regime di day surgery. Pensiamo per esempio alle prestazioni di procreazione medicalmente assistita, no? Che passa all'ambulatorio. Mentre per quanto riguarda le prestazioni, diciamo, croniche, le nuove patologie croniche, c'è uno switch in questo caso di due patologie molto importanti come la celiachia e la sindrome di Down, che passano dall'elenco delle malattie rare a quello delle patologie croniche. Un altro tema molto importante, i nuovi LEA, Barbara, vanno incontro ai malati rari assegnando un codice che dà diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa a 118 patologie rare precedentemente escluse dalla lista. Esattamente, questa è una novità molto richiesta e molto attesa dalle associazioni, che peraltro sono molto combattive, dei pazienti con malattie rare. Vorrei precisare che diciamo l'adeguamento da parte delle regioni dovrà scattare 180 giorni dopo l'entrata in vigore dei nuovi LEA, questo per permettere a tutte le amministrazioni di adeguarsi. In ogni caso, diciamo, questa è una novità molto importante, perché le patologie rare interessano, seppure poche persone per patologia, però in realtà un numero molto consistente di cittadini. Senti, sul tema dei vaccini c'è qualcosa da dire a proposito dell'arrivo dei nuovi LEA, una qualche relazione anche con questo tema che, come dire, assume sempre la ribalta della cronaca così di frequente? Ma assolutamente sì, perché i nuovi LEA hanno di fatto recepito il Piano Nazionale Vaccini 2017-2019, che tra l'altro vorrei segnalarvi probabilmente sarà approvato dalla conferenza Stato-Regioni giovedì, quindi ci siamo proprio, siamo sulla notizia. Ovviamente questo Piano Nazionale Vaccini, che è stato messo a punto, proposto dalle società scientifiche che ovviamente seguono da vicino il tema, è molto aggiornato e molto ampliato rispetto all'offerta attuale. La preoccupazione dei pediatri però è che anche qui ci sia un po' una introduzione graduale delle novità più interessanti. Sicuramente sarà introdotto il meningococco B, che come sappiamo anche per i casi di cronaca insomma è all'attenzione di tutti i cittadini, si è creato anche un certo panico nei giorni scorsi, ma anche prestazioni meno conosciute come la profilassi per la varicella, l'HPV nei maschi, il rotavirus e lo pneumococco coniugato negli anziani. Certo. Barbara, questo restyling del perimetro LEA, come tu lo definisci appunto sul Sole 24 Ore, non sarà completamente indolore per i cittadini, perché sicuramente è un nuovo sistema che porterà ad un bel risparmio per la sanità pubblica, ma con che carico sulle spalle appunto delle persone, dei cittadini italiani? Ecco, sì, va detto che ovviamente ci sarà un costo, perché il passaggio dall'ospedale, cioè dal regime di ricovero puro all'ambulatorio, comporterà probabilmente una extra esborso da parte dei cittadini in termini di ticket di circa 18 milioni. Questa è la cifra stimata proprio nel testo dei nuovi LEA, per cui il Ministero ne è assolutamente, diciamo, consapevole. Va aggiunto poi che si stimano, e questa è diciamo, un'analisi che è stata fatta dal Servizio Studi del Senato, che si potranno avere anche oltre 42 milioni di nuovi ticket per maggiori consumi dovuti alle nuove prestazioni ambulatoriali, perché le prestazioni crescono e inevitabilmente cresceranno anche i costi, chiaro, diciamo, a carico dei cittadini. Barbara, grazie molte per averci raccontato tutto ciò che ci interessa direttamente tutti. A presto, buona grazie. Giornata. Buongiorno. E su, sei sempre il più. E giù, sei un uomo in più. Insomma, abbiamo sentito del delisting di certe patologie dell'ambito LEA. Continuiamo a prendere in prestito anche in questa parte di cuore il linguaggio finanziario. L'influenza è proprio in un trend positivo, lo sarà ancora per le prossime due settimane almeno, dicono gli esperti, per poi andare incontro ad un analogo periodo di flessione. È davvero così? Voi come vi sentite intanto stamattina? Siete ancora un po' influenzati? Avete ancora qualche strascico magari di una bella botta di influenza presa nei giorni scorsi? Stamattina ne parliamo con il professor Fabrizio Pregliasco, virologo del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Milano, che salutiamo. Buongiorno e bentornato. Lei l'ha superata, professore, la svangata? Io mi sono vaccinato proprio perché Bene. È necessario rilanciare questo aspetto ed è un piacere riparlare con voi e con lei. Anche per noi. Grazie, professor Pregliasco. Allora, io al momento sono stata graziata, vediamo un po' se posso continuare a dirlo ancora a lungo, non me la vorrei tirare addosso. Allora, professore, secondo l'ultimo bollettino di sorveglianza epidemiologica delle sindromi influenzali, Influnet, coordinato appunto dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'inizio della stagione sono circa 2 milioni di italiani che sono stati messi KO dell'influenza. Siamo ad un numero fisiologico, c'è qualche, come dire, alterazione negativa rispetto agli anni passati? È una stagione come le previsioni, peraltro più vivace delle ultime passate, perché quest'anno sta prevalendo una variante H3N2 Hong Kong, ma al di là di questo nome, una variante relativamente nuova, quindi più diffusiva, e per questo più casi e statisticamente, percentualmente, più casi complessi, tant'è che abbiamo proprio sentito e subito nella scorsa settimana tantissimi problemi a livello di pronto soccorso per le situazioni più pesanti. La scorsa settimana una leggera riduzione nei bimbi, ma un incremento ancora negli adulti, quindi probabilmente siamo un po' in una fase quasi di picco o di relativa stasi, ma davvero l'influenza ci terrà compagnia per tutto il mese di febbraio. Certo, ma quando lei parla di situazioni pesanti che addirittura finiscono in pronto soccorso, professor Pregliasco, a che cosa facciamo riferimento? Cosa succede nel fisico che non riesce addirittura a superare un'influenza, anche se magari può essere pesante, con temperatura alta? importante ribadire la vera influenza rispetto a tante situazioni meno pesanti, perché l'influenza diventa una definizione ombrello che ricopre anche cause da altri virus che meno cattivi dal punto di vista degli effetti. Però diciamo così che nella stragrande maggioranza dei casi l'influenza è una malattia banale. È una malattia che ci fa schivare il compito in classe, la cena dalla suocera e quindi al di là del fastidio di 4 giorni finisce lì. Però purtroppo nei milioni di casi l'influenza colpisce persone che hanno problemi già di base a livello respiratorio, a livello cardiaco, e lo sforzo aggiuntivo per l'elevata febbre e gli effetti dell'infezione appesantiscono quelli che sono i problemi di base. Quindi i soggetti più fragili, gli anziani in genere, ma anche i bronchitici cronici, appunto i cardiopatici, hanno questa spinta, questa goccia che fa traboccare il vaso già ricolmo, e da qui l'appesantimento degli effetti, certo, e i pronti soccorsi che già sono operativi e al limite subiscono in questo periodo uno stress aumentato. Raccontateci qual è stato l'effetto sul vostro fisico, come vi siete curati, insomma ci confronteremo ancora con il professor Pregliasco dopo il traffico. 800 24 00 24 continua ad essere il numero verde a vostra disposizione, vi aspetto tra pochissimo. Cuore e denari. Ecco il modo sicuramente più utile per poter evitare di contagiare le altre persone ed evitare anche magari di essere contagiati, provare a stare lontani da chi non ha la buona pratica di proteggere il naso quando starnutisce. Allora, professor Pregliasco, certo lo starnuto arriva a sorpresa, non è che si preannuncia con largo anticipo, per cui qualche volta questa doccia di microbi che ci fa la persona accanto in metropolitana è del tutto disattesa. Detto ciò, perché è un po' raffreddato, prima regola, esatto, per evitare il contagio, quantomeno fazzoletto di carta a portata di mano. 250 all'ora, particelle che raggiungono i 3-4 metri, quindi davvero sono delle mitragliatrici, mitragliate di sputazzi. Lo Speedy Gonzales. Sono veramente a rischio. Allora, so che io, che magari vi faremo sorridere, ma in realtà, ecco, non banalizziamo il tema dello starnuto, che è proprio, come dire, il veicolo di contagio anche dell'influenza di questo periodo. Se qualcuno se la porta in giro in metropolitana perché magari ha un impegno a cui non può assolutamente rinunciare, se ne va in giro con un paio di linee di febbre, provando a resistere, forse anche quella non è. Farsela in piedi, professor Pregliasco, non è mai una buona idea, o sì? Non è una buona idea assolutamente, sia come giustamente diceva si infettano gli altri, due, si rischiano quelle complicanze, quelle sovrainfezioni, perché abbiamo detto i casi più gravi sono problemi cardiaci e respiratori, chi già è fragile, però l'infezione virale riduce le difese immunitarie e facilita anche nel giovane la cosiddetta sovrainfezione batterica, quindi possibili polmoniti, bronchiti, e quindi male fa, e quindi soprattutto poi untori degli amici, dei colleghi, dei compagni. Certo. Di scuola. Andiamo a tutte le altre regole per provare ad evitare il contagio appunto con il virus. Cosa dobbiamo fare? Ci sono indicazioni precise che arrivano dall'Istituto Superiore di Sanità. Professor Pregliasco. Ma sicuramente il lavarsi frequentemente le mani è una banalità, è una cosa che non facciamo o facciamo male, perché anch'io alla fine magari mi sciacquo proprio per qualche istante con acqua e sapone, invece bisogna usare sapone, basta il sapone, non c'è bisogno del disinfettante, a meno che non si abbia la disponibilità dell'acqua corrente, perché acqua corrente e sapone per 30 secondi con un bello stropicciarsi le dita, un po' come alla Fantozzi, insomma, per riuscire a togliere anche dagli angoli, negli spazi interdigitali, l'eventuale materiale che ha un contaminato è fondamentale. Quindi lavarsi le mani. E poi i rimedi banali della nonna, ma la sciarpa è anche questa, direi, un elemento fondamentale, perché raffreddare le prime vie aeree significa facilitare le infezioni, quindi riuscire a mantenere un equilibrio termico fra interno e esterno, soprattutto nelle fasi di passaggio, che non è detto che siano verso il freddo dal caldo, ma anche dal caldo verso il freddo, insomma, indifferentemente, noi rimaniamo per qualche istante meno protetti, e quindi attenzione. Importante dirlo, a volte le mamme hanno paura a portare fuori i bimbi durante il periodo freddo. Male non fa, anzi ben venga. Attenzione però a quella fase appunto di passaggio, da quando si esce di casa e quindi magari coprire per un po' di più, quindi a strati, il bimbo e fare in modo che possa equilibrare la sua regolare la sua temperatura. Professor Pregliasco, io tra un po' vorrei prendere una domanda di un ascoltatore per lei, ma intanto le presento anche un altro amico di Cuore e Denari, che è il nostro naturopata Luca Voledo. Luca, buongiorno. Dottor Luca Voledo, ben ritrovato, eccoci qua. Sì, buongiorno, buongiorno Deborah, ben ritrovati. Grazie, allora abbiamo bisogno anche dei tuoi, Luca, preziosi consigli per non lasciarci, è proprio il caso di dirlo, influenzare, e possiamo ricorrere naturalmente a tutta una serie di rimedi che vanno al di là della, non dico banale, ma insomma più nota e conosciuta spremuta d'arancia. Direi che possiamo partire subito dai principali accorgimenti semplici da mettere in pratica appunto per poterci proteggere in questa fase così che non ci dovrebbe sorprendere, insomma, se siamo colpiti dall'influenza. Eppure qualcuno dice: oh mamma mia, non me l'aspettavo. E quindi, insomma, naturalmente parlando, che cosa si può fare? Beh, ci sono tre cose che si possono fare prima ancora di pensare ai farmaci o anche ai rimedi naturali, cose che possiamo fare tutti i giorni. Io la chiamo la regola delle tre A, per sintetizzarla. Di una parlavate voi insieme al professor Pregliasco, è quella di usare acqua e sapone per le motivazioni che dicevate, perché se è vero che gli starnuti sono un veicolo molto importante, ma ci si dimentica che quando si mettono le mani su una maniglia ed è passato qualcuno... Bravo, lo sai che è diventato il mio tormento in testa tutte le volte? È un veicolo di infezione molto, come dire, importante. Poi magari ci tocchiamo gli occhi o la bocca, ecco, senza lavarsi le mani, e portiamo così tutti i virus del mondo o quasi nel nostro corpo. Quindi acqua e sapone, senz'altro, sì, come giustamente dicevate. L'altro aspetto molto importante, la seconda A, è l'attività fisica. Sappiamo che chi fa regolarmente attività fisica senza però sfiancarsi può però dimezzare il rischio di incorrere in malattie di stagioni varie, sostenendo in qualche modo meglio il sistema immunitario. Sto pensando a un'attività aerobica, come si suol dire, moderata, quindi la corsa, il nuoto, anche la semplice passeggiata di buon passo, però praticata magari per tre quarti d'ora nella maggior parte dei giorni della settimana. Sì, infine, la terza, sì. L'ultima, non si può dimenticare il ruolo fondamentale assunto anche dell'alimentazione. Come mangiamo, nel bene e nel male, ha un ruolo molto potente nel sostenere le difese immunitarie, quindi lo sanno tutti bene, però non è mai inutile ricordarlo che l'assunzione di una quantità sufficiente di, in particolare, verdura fresca, frutta di stagione, frutta non sciroppata, insomma, in qualche modo, ha una importanza molto forte nel sostenere le difese immunitarie. Certo, noi siamo qua sempre nell'ambito preventivo, ma possiamo fare qualcos'altro, un ulteriore sforzo per rinforzare il nostro sistema immunitario, per prevenire influenze e malanni di stagione, Luca? Sì, per prevenire e anche sostenere in qualche modo appunto le difese nel momento in cui questi malanni siano già occorsi, ovviamente non nei casi in cui parlavate voi, questo va detto, cioè non nei casi che richiedono l'ospedalizzazione o nelle persone con sistema immunitario fortemente compromesso, ma sto pensando all'uomo della strada, tutti noi in qualche modo, che possiamo utilizzare dei rimedi naturali di comprovata efficacia, in qualche modo godono delle conferme della ricerca scientifica. Sto pensando per esempio a una pianta molto nota che è l'astragalo, che si chiama Astragalus membranaceus da un punto di vista scientifico, è una pianta molto utilizzata nella medicina tradizionale cinese, che gode appunto però anche di alcuni riscontri della moderna ricerca scientifica, e si è visto che sostiene le difese immunitarie e combatte le infezioni delle vie respiratorie, in particolare assumendo magari uno, due o nelle fasi un po' più critiche anche tre o quattro capsule al giorno per alcuni giorni, insieme per esempio alla notissima vitamina C, che è un rimedio che conoscono tutti e che possono, come dire, sinergicamente utilizzare. E se l'influenza ha superato tutte queste barriere, raffreddore, tosse, febbre, mal di gola, hanno già fatto la loro comparsa, come li possiamo mandar via? Con un'erba che può aiutarci, magari appunto non garantisce che li mandiamo via, ma può in qualche modo accorciare la durata dei disturbi e ridurre l'intensità dei fastidi, diciamo così, che è la notissima echinacea. L'echinacea, che è un'erba immunostimolante, antimicrobica, antivirale, rimedio molto noto, viene utilizzato tanto a scopo preventivo e invece si è visto che funziona meglio a prenderla a disturbi già in atto, quindi in questo periodo va molto bene, una capsula per 2 o 3 volte al giorno finché serve. E speriamo che ci tolga l'influenza di torno. Grazie a Luca Voledo per essere stato con noi, il nostro naturopata. C'era Bernardino dalla provincia di Latina che voleva raccontarci che ha questa tosse che non lo abbandona da 20 giorni. Professor Pregliasco, 10 secondi, qua siamo oltre l'influenza e qua già il polmone. Esatto, sono effetti una bronchitina secondari, ma non è detto, ecco, una visita medica magari ci vuole, però non si può escludere che la tosse sia solo un effetto, diciamo così, del danno iniziale fatto dal virus influenzale o altro virus che ha rovinato le cellule della via respiratoria, e la tosse è un segno di questa, diciamo, ferita o comunque questa alterazione. Quindi purtroppo questa tosse può andare avanti a lungo e qui si tratta anche qui di un'automedicazione per ridurla. Subito dal